Die braunen Pupillen, die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann dein Feind sein, es kann dein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue. Sono le ore 16:55 di lunedì 28 agosto 2006, mi trovo all'Associazione Stampa Estera, che è un vero e proprio tempio del giornalismo internazionale in Italia, un luogo che qui a Roma indubbiamente rappresenta una sorta di rifugio spirituale per chi intenda scappare per un giorno dal teatrino della nostra politica, dalle comari dei nostri salotti finanziari, dalle efferatezze della nostra cronaca nera estiva. E per questa quarta puntata di Due Occhi da Straniero siamo in compagnia di Yossi Bar, che oltre ad essere corrispondente in Italia del quotidiano israeliano Yediot Ahronot, spero di aver azzeccato la pronuncia, è anche il presidente dell'Associazione Stampa Estera. Intanto Yossi Bar, grazie per la sua ospitalità, grazie per la sua disponibilità. Per prima cosa vorrei chiederle, lei è in Italia da 23 anni, mi ha detto, come è cambiata? Com'è cambiata in questo periodo la percezione dell'Italia e degli italiani, secondo lei, presso la stampa estera? Beh, è cambiata moltissimo, perché mi ricordo all'inizio del mio mandato qua in Italia, che poi non è un mandato di 23 anni, ma è stato interrotto alcune volte, sono tornato e poi sono ritornato. Mi ricordo che Italia fungeva più che altro di una base comoda per poter arrivare ai paesi del sud Europa. E tantissimi giornalisti facevano il giornalismo dall'Italia, però non è che in quel tempo c'era molto Italia, non aveva un ruolo così rilevante nella politica internazionale, perciò faceva comodo di stare qua come un punto strategico e poi uscire in vari paesi, magari anche in Medio Oriente, ma in tutto il sud di Europa, per coprire degli eventi importanti. Era semplicemente un posto in cui si arrivava velocemente da qualsiasi parte del sud d'Europa e del Medio Oriente. E con il passare d'anni l'Italia ha conquistato un posto molto rilevante nella politica internazionale e vediamo che oggi sta praticamente conducendo l'Unione Europea nell'ultima missione che ci sarà in Libano. Un posto veramente che fa onore e un posto di prestigio nei vari paesi, ma in tutto il mondo è riconosciuto questa funzione d'Italia. Un corrispondente estero, quando scrive del paese che lo ospita, come l'Italia in questo caso, per evitare di cadere nei pregiudizi più diffusi, può fare appello a tutta una serie di strumenti etici, professionali, però secondo lei questi strumenti sono veramente efficaci? Cioè è possibile per un giornalista straniero liberarsi completamente degli stereotipi? Ma secondo me tranquillamente, bisogna tenere conto che ogni giornalista arriva qua in Italia con il suo bagaglio culturale, magari quello che è stato inculcato nel paese d'origine, perciò se in un paese parlo dei vari paesi nel mondo, non voglio citare un paese in particolare, gli insegnano che gli italiani sono il popolo dei mafiosi, di quelli che non lavorano, quelli che non, insomma, sanno solamente di arrangiarsi. Allora il giornalista viene con questi pregiudizi in Italia e poi costruisce tutto il suo lavoro intorno a questi pregiudizi. Ma direi che ultimamente c'è una apertura abbastanza grande, questo succedeva forse anni fa. Oggi vedo tantissimi giornalisti, cioè quasi tutti che arrivano, vedono in Italia un paese moderno, gli stereotipi del passato sono ormai passati di moda e l'Italia viene vista come un paese diciamo molto, non molto, ma un paese moderno in cui ha vari problemi, ha la mafia, ha delle cose negative come la mafia, ha delle cose positive come la cultura, la bellezza, l'archeologia, il genio di inventare le cose e tantissime altre cose positive. Ecco, stamattina, passando all'attualità, è uscito su Repubblica un interessante articolo di Pietro Citati che parla in sostanza di una forma di antisemitismo strisciante che caratterizzerebbe una parte della stampa italiana, in particolare quella che ha colto l'esito della guerra tra Israele e Hezbollah, che questi ultimi hanno percepito come una vittoria di Hezbollah, con una certa soddisfazione, malcelata soddisfazione. Ecco, secondo lei, dietro queste opinioni e dietro un certo tipo di critica alla politica del governo israeliano, esiste davvero una forma di antisemitismo oppure è un allarme ingiustificato? Beh, esiste, ma l'antisemitismo esiste come esiste il razzismo, come esistono tantissime forme negative nelle varie società. Io adesso direi che in Italia l'antisemitismo è molto minore che in altri paesi europei. Perciò non vedo nessuna meraviglia di dire che c'è in Italia un antisemitismo e bisogna vedere qual è la percentuale di questo antisemitismo. A mio avviso questo antisemitismo in Italia non è così rilevante ed è molto molto meno che in paesi come la Francia, l'Austria e anche tanti altri paesi europei. Ecco, però proviamo a vedere la stessa questione dal punto di vista del giornalista che prova a esprimere le proprie idee in buona fede. A volte, leggendo i giornali, si ha la sensazione che un giornalista italiano, quando deve esprimere un giudizio sulla politica del governo israeliano, sembri quasi camminare su una specie di fune sospesa, con il rischio di causare proteste delle comunità arabe da una parte o israelitiche dall'altra, con poi sullo sfondo la prospettiva di essere a loro volta accusati di essere anti-arabi o antisemiti. Cosa deve cambiare, secondo lei, nei fatti reali, nel comportamento della stampa, perché i giornalisti possano esprimere un giudizio sulla politica del governo di Israele con la stessa serenità con cui si giudica la politica di qualsiasi altro governo del mondo? La cosa che deve cambiare è senz'altro l'educazione, la conoscenza, la storia del Medio Oriente, la storia del popolo di Israele. E tantissime volte sto seguendo dibattiti e sto leggendo dei articoli di gente che non hanno mai conosciuto, hanno poca dimestichezza in quello che succede veramente in Israele e nei paesi arabi, i loro rapporti, e perciò è facile sbagliare e dire che sono antisemita, sono anti-israeliano, sono razzista, sembra tutto fa parte di una stessa cosa. Invece le differenze fra questi tre termini sono grandissimi. Essere anti-israeliano, essere dare dei giudizi negativi sulla politica israeliana non vuol dire che sei un antisemita. Invece i pregiudizi verso gli ebrei che sono avari, che hanno occupato i gangli del potere economico, di mass media, di varie cose, questi sono sì pregiudizi antisemiti. E per cambiare questa situazione bisogna essere molto molto attenti, ma avere una conoscenza profonda di chi intende di scrivere sul Medio Oriente, sui problemi del Medio Oriente, in particolare di Israele. Ecco, ma al di là del comportamento della stampa, secondo lei quali sono le caratteristiche tipiche dell'antisemitismo italiano, dove ci sono varie componenti, quella religiosa, quella politica, quella ideologica? Ma le caratteristiche, diciamo, dell'antisemitismo italiano sono basate su un'ignoranza totale della gente che ancora si sta basando sui pregiudizi antichissimi, in cui gli ebrei facevano dei mestieri. Erano dei strozzini cosiddetti, sono dei, quasi tutti sono dei commercianti, quasi tutti hanno soldi e sanno trattare benissimo i soldi, sanno manipolare, sanno speculare nei soldi. Anche sull'aspetto fisico, ma sono pregiudizi che sono rimasti veramente nella ignoranza ancora del tempo fascisti, che sono stati ereditati, diciamo, da fasce di popolazione molto, molto ignorante, che non ha saputo cambiare. E non ha saputo neanche vedere la realtà, che questi pregiudizi erano a base di una manipolazione del regime fascista. Purtroppo sono rimasti, come abbiamo dei pregiudizi che, per esempio, tutti i tedeschi sono ancora nazisti, oppure il detto grata grata, che sotto un tedesco si nasconde un nazista. Quando uscì il film La vita è bella di Roberto Benigni, lei affermò in un suo articolo, e cito le sue parole, che Benigni era stato capace di creare l'incredibile, cioè un film comico sull'Olocausto, e chiunque altro sarebbe stato accusato di antisemitismo o insensibilità per un tema così doloroso. Ecco, lei crede che sia un caso che questo piccolo miracolo sia riuscito a un regista italiano, oppure davvero noi italiani abbiamo qualche strumento legato alla nostra concezione tutto sommato scanzonata della vita, il fatto di non prenderci troppo sul serio, di non essere troppo nazionalisti, per sfuggire a certe logiche molto rigide del dibattito sull'antisemitismo? Direi che dopo aver scritto questo, non è che tutti erano d'accordo con me. Anche oggi il film La vita è bella viene visto positivamente e anche negativamente. Direi che la maggioranza della gente israeliana ed ebrea penso che ha capito che è un film ironico. Ma direi che il merito del film è basato tutto sulla genialità di Roberto Benigni, che è diventato uno dei artisti italiani più amati e conosciuti in Israele. Non penso che questo film riusciva a qualcun altro attore. Che non fosse Roberto Benigni. E io ho una grande ammirazione per lui, è veramente, direi che è un genio dal punto di vista di vedere le cose, le cose tragiche in maniera ironica. Ecco, tornando alla situazione mediorientale, qualche giorno fa mi è capitato di ascoltare su Repubblica Radio un dibattito sulle prospettive del conflitto tra Israele ed Hezbollah, al quale anche lei ha partecipato insieme a Gad Lerner, Bernardo Valli, Ali Rashid, eccetera. Ecco, io devo essere sincero, come dibattito mi ha un po' deluso, perché da nessuna delle parti in causa ho sentito argomenti nuovi. Cioè, per quanto mi riguarda, poteva anche essere un dibattito 10 anni fa, in cui tutti facevano il gioco delle parti, nessuno ha fatto uno sforzo per fornire agli ascoltatori una chiave di lettura di quello che stava accadendo, che non fosse il solito argomento dell'avete cominciato prima voi. Ecco, io temo che questo spinga molti italiani a smettere di cercare di capire e rimanere quindi in quell'ignoranza di cui anche lei parlava poco fa. Cioè, si finisce per fare il gioco di chi non vuole che le cose siano effettivamente capite. Non credo sarebbe ora di rompere questo schema bloccato e di dare a questo dibattito la forma di un dialogo un po' più costruttivo? È molto difficile in un dibattito quando partecipano varie persone con opinione molto diversa e talvolta molto violenta uno verso l'altro. E, sì, direi che forse lei ha ragione dicendo queste cose, che non abbiamo detto niente di nuovo. Infatti era un dibattito puramente per quelli che ormai già conoscono molto bene la situazione in Medio Oriente. E, diciamo che era un dibattito che approfondiva, anche se si ripeteva le stesse cose, però ormai superava la prima fase di conoscenza, perciò era difficile anche comprendere per uno che non ha mai saputo di quello della realtà medio orientale di capirlo bene. Ma questo il fatto è che quando ci sono questi dibattiti è ovvio che ognuno cerca di difendere la sua parte con maggior foga possibile. Ed è quello che è successo anche durante questo dibattito. Mi dispiace che forse non abbiamo detto niente di nuovo, però sono d'accordo con lei che bisogna forse impostare il dibattito in un modo diverso, così che anche gli ascoltatori potrebbero anche capire la situazione un po' meglio. Ma questo dipende anche dal conduttore del dibattito e anche di programmare un dibattito in un certo modo che anche quegli ascoltatori che non hanno dimestichezza con il Medio Oriente, con i problemi, riescono piano piano ad affascinarsi, a comprendere meglio, e così il dibattito diventa molto più popolare, molto più interessante anche per quelli che non sono esperti in Medio Oriente. In un recente convegno a Cortina, Magdi Allam ha detto che quest'ultimo conflitto tra arabi e israeliani si svolge su tre piani: quello militare, quello diplomatico, ma soprattutto sul piano mediatico. E io credo che in questo noi italiani paghiamo un prezzo particolare, perché la nostra stampa è così politicizzata da strumentalizzare sistematicamente queste vicende, anche per fini di politica interna. Che strumenti può avere, stando così le cose, un italiano per capire davvero l'evoluzione degli avvenimenti in Medio Oriente? Siamo proprio condannati a leggere giornali stranieri, a imparare le lingue straniere? La politicizzazione della stampa italiana è un dato di fatto. Purtroppo è difficile comprare in Italia un giornale che non appartiene a una fascia politica. E non saprei, io ti dico che per capire certe cose della politica italiana devo leggere talvolta 10 giornali di tutte le parti politiche. È molto difficile per me ed è, non saprei come fanno gli italiani a a comprendere certi argomenti che vengono semplicemente, non direi manipolati, ma visti in un'ottica di una certa parte politica che... Forse la risposta è anche nella tiratura molto bassa dei nostri grandi quotidiani rispetto ai grandi quotidiani degli altri paesi democratici. Sì, la tiratura è molto bassa, anche i lettori sono molto pochi, direi rispetto agli altri paesi del mondo europei, ma non solo europei, direi che qui in Italia si legge pochissimi giornali e perciò siamo destinati a vedere, a capire quello che succede. Dalle televisioni che semplificano tutto e purtroppo danno una informazione molto superficiale che non fa sì che lo spettatore riesce a approfondire un certo argomento, ma a vedere delle foto talvolta orrende, talvolta meno orrende, e così di farsi un'idea magari non esatta, un'idea sbagliata della situazione reale che veramente c'è in quel paese, in quel momento, in quell'azione. La stampa invece israeliana, sia lo Yedioth Ahronot, sia più recentemente Haaretz, ha criticato molto duramente Massimo D'Alema per la sua politica di equidistanza in un conflitto che, se fosse ancora il governo Berlusconi, avrebbe visto l'Italia nettamente al fianco di Israele. Però, adesso, senza entrare nel merito se sia stata una posizione giusta o sbagliata quella di D'Alema, però va detto che questa posizione, al di là della valutazione, in termini però di Realpolitik, ha pagato, perché oggi l'Italia, proprio per questa sua posizione di equidistanza, ha recuperato un ruolo da protagonista nel Mediterraneo che sembrava aver smarrito con Berlusconi. Allora le chiedo, secondo lei gli italiani si riconoscono di più nell'approccio D'Alema-Prodi o nell'approccio di Berlusconi-Fini alla politica mediorientale? Ma la domanda è abbastanza difficile, anche perché qui non si tratta di fare il tifo calcistico, cioè Prodi e D'Alema contro Berlusconi e Fini. L'opinione pubblica non dovrebbe prendere parte di Israele oppure degli arabi, dovrebbe vedere la situazione in maniera reale, e questo purtroppo dovrebbe essere il compito dei mass media italiani, che offrono una visione globale. Non solamente dei guai che hanno i palestinesi, della loro sofferenza, ma anche della sofferenza che c'è dall'altra parte. Qualche volta vediamo dei servizi, e mi riferisco in particolare ai servizi televisivi, in cui le sofferenze sono spostate solamente da una parte e non ci sono, non appaiono le sofferenze che ci sono dall'altra parte. A prescindere di questo, trovo che la politica di Prodi e D'Alema, visto la situazione, è stata da me criticata all'inizio, però è stata basata sui fatti del passato. Direi che oggi la politica di D'Alema e Prodi e D'Alema, è una politica molto, molto realista, molto, molto bilanciata. Non vedo un tifo in particolare, e lo spero che continuerà così, perché solo così l'Italia potrà avere un ruolo veramente importante per cercare di arrivare ad avviare un processo di pace fra gli israeliani e il mondo arabo, un processo che fino adesso purtroppo con tutti gli schemi che abbiamo avuto non è riuscito. Come mai, secondo lei, l'Italia è stata giudicata un paese adatto per guidare la forza di intervento dell'ONU in Libano? L'Italia si è rivelata un paese equilibrato, che ha buonissimi rapporti con i paesi arabi ed ha anche ottimi rapporti con Israele. E questo, diciamo, è senz'altro la chiave di lettura di questa riuscita della politica italiana in questi giorni, visto che gli altri paesi non hanno saputo di dare una visione credibile sia ad Israele sia ai paesi arabi. Infine vorrei chiederle di togliermi una curiosità. Io ascolto molto le radio satellitari, leggo i giornali stranieri. Ogni tanto, quando leggiamo un articolo anche di agenzie molto importanti come l'AP, eccetera, sui conflitti militari che riguardano Israele, viene sempre citata come fonte la radio militare israeliana, che, a differenza delle altre fonti militari, però questa gode di molta credibilità, ha una storia particolare. Però, secondo lei, perché? È difficile capire perché, visto che io lavoro anche per la radio pubblica ed è la radio pubblica che viene ascoltata di gran lunga rispetto alla radio militare. Sicuramente gli analisti che sentono la radio militare, quelli stranieri mi riferisco, pensano che quella radio militare, che tutto sommato è più vicina ai fatti. No, non direi che è più vicina ai fatti, è molto più facile che la radio militare dia risposte, diciamo, filtrate e anche unilaterale rispetto alla radio pubblica, che si chiama Call Israel, che dà una visione veramente globale e non è, diciamo, una radio filtrata, ma una radio totalmente libera, che critica fortemente l'esercito. Mi viene difficile pensare che la radio militare farebbe una critica ai militari, perciò. Quindi gode di una credibilità immeritata, soprattutto all'estero, la radio militare israeliana, perché poi in realtà in Israele la radio pubblica è molto più popolare per seguire gli avvenimenti bellici. Ma diciamo che la radio militare forse qualche volta riesce ad avere più velocemente delle notizie sui fatti, però dopo per avere il privilegio di essere citata, a parte del fatto stesso, io direi che sarebbe molto meglio che i corrispondenti stranieri si basassero sulla radio, diciamo, pubblica e sulle rete pubbliche delle televisioni, che sicuramente sono molto più libere e non sono controllate assolutamente dall'esercito, solamente in caso che si tratta di notizie che possono nuocere alla sicurezza nazionale. Die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit. Tutte le interviste di Due Occhi da Straniero sono pubblicate con licenza Creative Commons e sono scaricabili dal sito dueocchidastraniero.wordpress.com. La musica della sigla, per gentile concessione dell'etichetta Bella Musica Edizione, è Zwei Fremde Augen, cantata da Salome Kammer e tratta dal film Heimat 2, cronaca di una giovinezza di Edgar Reitz. Per i vostri commenti e suggerimenti potete scrivere ad antoniocontent@yahoo.it. Zwei Fremde. pupilla die Lieder. Was war das von der großen Menschheit ein Stück? Vorbei, verweht, nie wieder.